Sura 34esima. Sabah. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Lode ad Allah, colui cui appartiene tutto quel che è nei cieli e sulla terra. Lode a lui nell'altra vita. Egli è il saggio, il ben informato. Conosce quello che penetra nella terra e quello che ne esce, quel che scende dal cielo e quel che vi ascende. Egli è il misericordioso, il perdonatore. I miscredenti dicono: non ci raggiungerà l'ora. Di loro: no, per il mio Signore, certamente giungerà a voi per colui che conosce l'invisibile, colui al quale non sfugge il peso di un atomo nei cieli e sulla terra. E non c'è nulla di più grande o più piccolo che non sia in un libro chiarissimo, affinché Allah ricompensi coloro che credono e compiono il bene. Saranno perdonati e avranno un dono generoso. Coloro invece che avranno cercato di vanificare i nostri segni subiranno il castigo del tormento doloroso. Coloro cui è stata data la scienza vedono che quel che ti è stato rivelato da parte del tuo Signore è verità e guida sulla via dell'eccelso, del degno di lode. Dicono i miscredenti: volete che vi mostriamo un uomo che vi predirà una nuova creazione dopo che sarete stati del tutto dispersi? Ha inventato menzogne contro Allah o forse è posseduto? No, coloro che non credono nell'altra vita sono destinati al castigo e a errare lontano. Non vedono forse quel che di cielo e di terra c'è davanti a loro e dietro di loro? Se volessimo, li faremmo inghiottire dalla terra, o faremmo cadere su di loro brandelli di cielo. In verità in ciò vi è un segno per ogni servo che torna a lui pentito. Già concedemmo a Davide una grazia speciale: glorificate montagne, e anche voi uccelli insieme con lui. E gli rendemmo malleabile il ferro, dicendogli: fabbrica cotte di maglia e stringi bene le maglie. Agite bene, in verità io osservo quello che fate. Sottomettemmo a Salomone il vento che percorre un mese di marcia il mattino e un mese la sera, e facemmo scorrere la fonte di rame. Lavoravano i demoni sotto di lui col permesso del suo Signore. Se uno qualunque di loro si fosse allontanato dal nostro ordine, gli avremmo fatto provare il castigo della fiamma. Costruivano per lui quel che voleva: templi e statue, vassoi grandi come abbeveratoi e caldaie ben stabili. O famiglia di Davide, lavorate con gratitudine. E invece sono ben pochi i miei servi riconoscenti. Quando poi decidemmo che morisse, fu solo la bestia della terra che gli avvertì della sua morte, rosicchiando il suo bastone. Poi, quando cadde, ebbero la prova i demoni che, se avessero conosciuto l'invisibile, non sarebbero rimasti nel castigo avvilente. C'era, invero, per la gente di Sabah un segno nella loro terra: due giardini, una a destra e una a sinistra. Mangiate quel che il vostro Signore vi ha concesso e siategli riconoscenti. Avete una buona terra e un Signore che perdona. Si allontanarono da noi, e allora inviammo contro di loro lo straripamento delle dighe e trasformammo i loro due giardini in due giardini di frutti amari, tamarischi e qualche loto. Così li ricompensammo per la loro miscredenza. Castighiamo in tal modo altri che il miscredente? Situammo tra loro e le città che avevamo benedetto altre città visibili l'una dall'altra, e calcolammo la distanza tra loro. Viaggiate di notte e di giorno in sicurezza. Dissero: Signore, aumenta la distanza tra le nostre soste. Così danneggiarono loro stessi. Ne facemmo argomento di leggende e li disperdemmo in ogni luogo. In verità in ciò vi sono segni per ogni uomo perseverante e riconoscente. E Iblis si convinse di aver visto il giusto a loro proposito. Lo seguirono dunque, eccetto un gruppo di credenti. Non aveva su di loro alcun potere, eccetto per il fatto che volevamo distinguere chi credeva nell'altra vita e chi ne dubitava. Il tuo Signore è colui che preserva ogni cosa. Di. Invocate coloro che pretendete essere divinità all'infuori di Allah. Non sono padroni neppure del peso di un atomo, nei cieli e sulla terra. In quelli e in questa non hanno parte alcuna con Allah, e in loro egli non ha nessun sostegno. Nessuna intercessione varrà presso di lui, eccetto per colui al quale egli lo avrà permesso. Quando poi il terrore avrà lasciato i loro cuori, verranno interrogati. Cosa diceva il vostro Signore? Risponderanno: la verità. Egli è l'Altissimo, il Grande. Di. Chi provvede a voi dai cieli e dalla terra? Di. Allah. In verità, o noi siamo sulla retta via, oppure in evidente errore. Di. Non sarete interpellati a proposito di quel che noi avremo commesso, e noi non lo saremo a proposito di quel che avrete fatto voi. Di. Il nostro Signore ci riunirà, quindi giudicherà tra noi, secondo verità. Egli è il giudice che tutto conosce. Di. Mostratemi quelli che gli avete attribuito come soci. Niente affatto, egli è Allah, l'Eccelso, il Saggio. Non ti abbiamo mandato se non come nunzio ed ammonitore per tutta l'umanità, ma la maggior parte degli uomini non sanno, e dicono: quando si realizzerà questa promessa? Ditecelo se siete veridici. Di. Vi aspetta un giorno che non sapreste né ritardare né anticipare di un'ora. I miscredenti dicono: non crederemo mai in questo Corano e neppure a ciò che lo precede. Se potessi vedere quando gli ingiusti saranno davanti al loro Signore, immobili si interpelleranno gli uni con gli altri. E coloro che erano considerati deboli diranno a quelli che erano tronfi d'orgoglio: se non fosse stato per voi, certamente avremmo creduto. E quelli che erano tronfi d'orgoglio diranno a coloro che consideravano deboli: vi abbiamo forse impedito di seguire la retta via dopo che essa vi giunse? No, anche voi siete stati colpevoli. E coloro che erano considerati deboli diranno a quelli che erano tronfi d'orgoglio: no, furono le vostre perfidie di giorno e di notte quando ci ordinavate di disconoscere Allah e attribuirgli consimili. Celeranno il loro rimorso quando vedranno il castigo, perché porremo i giochi al collo dei miscredenti. Saranno compensati per altro che per le opere loro? Non mandammo un ammonitore a una comunità senza che coloro che vivevano nell'agiatezza dicessero: non crediamo in ciò per cui siete stati inviati. Dissero: abbiamo ricchezze più grandi e figli, quindi non saremo castigati. Di. In verità il mio Signore concede generosamente a chi vuole e lesina a chi vuole, ma la maggior parte degli uomini non lo sa. I vostri beni e i vostri figli non vi potranno avvicinare a noi, eccetto per chi crede e compie il bene. Essi sono coloro che avranno ricompensa raddoppiata per quel che facevano, saranno al sicuro negli alti livelli del paradiso. Coloro che invece cercano di vanificare i nostri segni saranno obbligati a presentarsi al castigo. Di. In verità il mio Signore concede generosamente a chi vuole e lesina a chi vuole, e vi restituirà tutto ciò che avrete dato. Egli è il migliore dei dispensatori. Un giorno tutti li riunirà e dirà agli angeli: è voi che costoro adoravano? Diranno: gloria a te, sei tu il nostro patrono. No, essi adoravano i demoni. La maggior parte di loro credeva in essi. In quel giorno non potrete giovarvi o nuocervi a vicenda, e noi diremo a coloro che furono ingiusti: gustate il castigo del fuoco che tacciavate di menzogna. Quando vengono recitati loro i nostri chiari versetti, dicono: Costui non è altro che un uomo che ci vuole allontanare da quello che adoravano i vostri avi. E dicono: Questa non è altro che una menzogna inventata. Quando giunge loro la verità, i miscredenti dicono di essa: Questa non è che evidente magia. In passato non demmo loro libri da studiare, né prima di te inviammo loro un ammonitore. Coloro che li precedettero già tacciarono di menzogna le rivelazioni, mentre essi non hanno raggiunto nemmeno un decimo di quello splendore che concedemmo a quegli altri. Trattarono da bugiardi i miei messaggeri. Quale riprovazione fu la mia? Di: ad una sola cosa vi esorto, state ritti per Allah a coppie o singolarmente, e riflettete. Non c'è alcun demone nel vostro compagno. Egli per voi non è altro che un ammonitore che precede un severo castigo. Di: non vi chiedo nessuna ricompensa. Essa vi appartiene. La mia ricompensa aspetta da Allah. Egli è il testimone di tutte le cose. Di: certamente il mio Signore rivela la verità. Egli ha perfetta conoscenza di ogni cosa nascosta. Di: è giunta la verità. Il falso non può dare inizio a nulla e nulla rinnovare. Di: se mi perdo, è solo contro me stesso che mi perdo. Se mi mantengo sulla retta via, è grazie a quello che il mio Signore mi ha rivelato. In verità, egli è colui che ascolta, colui che è vicino. Se li vedessi quando saranno atterriti, senza nessuna via d'uscita e afferrati da presso, allora diranno: crediamo in lui. Ma come raggiungeranno la fede da così lontano, quando in precedenza erano miscredenti e da lontano rifiutavano l'invisibile? Si porrà un ostacolo tra loro e quel che desiderano, come già avvenne per i loro emuli, che rimasero in preda al dubbio e all'incertezza.